Questa è la parola che fu rivolta a Geremia riguardo a tutti i giudei che abitavano nel paese di Egitto. In Migdol, in Tafni, in Menfi e nel territorio di Patros. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Voi avete visto tutta la sventura che io ho fatto arrivare contro Gerusalemme e contro tutte le città di Giuda. Ecco, esse sono oggi una rovina, senza abitanti, a causa della malvagità che han commesso, facendomi irritare, andando ad offrire incenso, servendo altri dei che non avevano conosciuto né essi, né voi, né i vostri padri. Eppure io vi avevo inviato tutti i miei servi, i profeti, con sollecitudine e costanza, dicendo: non vogliate commettere questa cosa abominevole che io odio. Ma essi non hanno dato ascolto, né hanno prestato orecchio, così da ritrarsi dalla loro malvagità, non offrendo incenso ad altri dei. Allora sono traboccati il mio furore e la mia ira, e sono divampati contro le città di Giuda e per le strade di Gerusalemme, cosicché sono divenute rovina e devastazione come sono ancora oggi. Ma ora così, dice il Signore, Dio degli eserciti, Dio di Israele: perché voi volete operare un male grande contro voi stessi, facendovi distruggere uomini, donne e lattanti di mezzo a Giuda, sicché non vi sia lasciato un resto? Perché mi irritate con le azioni delle vostre mani, offrendo incenso ad altri dei nel paese d'Egitto, dove voi venite a dimorare per sterminare voi stessi e per divenire voi maledizione e vergogna tra tutte le nazioni della terra? Avete dimenticato le malvagità dei padri vostri, le malvagità dei re di Giuda e le malvagità delle loro donne, le vostre malvagità e le malvagità delle vostre donne che furono commesse nel paese di Giuda e per le strade di Gerusalemme? Fino a questo giorno non si son pentiti, né hanno avuto timore, né hanno camminato nella mia legge e nei miei precetti che io ho posto dinanzi a loro e dinanzi ai loro padri. Perciò così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: ecco, io ho collocato la mia faccia contro di voi per la sventura e per distruggere tutto Giuda. Io prenderò il resto di Giuda, quelli che hanno stabilito di entrare nel paese d'Egitto per dimorarvi, e saranno consumati tutti nel paese d'Egitto. Cadranno di spada, saranno consumati di fame, dal piccolo al grande. Di spada e di fame morranno, e diverranno devastazione, maledizione e vergogna. Io punirò tutti gli abitanti nel paese d'Egitto, come ho punito Gerusalemme, con la spada, con la fame e con la peste. E non vi sarà scampato né superstite per il resto di Giuda, venuto a dimorare qui, nel paese d'Egitto, che possa ritornare nel territorio di Giuda, dove essi desiderano ardentemente ritornare per abitarvi. Sì, non ritorneranno, se non alcuni scampati. Allora tutti gli uomini, i quali sapevano che le loro donne offrivano incenso ad altri dei, e tutte le donne presenti alla grande assemblea, e tutto il popolo che risiedeva nel paese d'Egitto, in Patros, risposero a Geremia: in quanto alla parola che ci hai detto nel nome del Signore, non ti ascoltiamo. Sì, noi vogliamo fare tutto ciò che è uscito dalla nostra bocca, offrendo incenso alla Regina del Cielo, e versando le libazioni come abbiamo fatto noi e i nostri padri, i nostri re e i nostri principi nelle città di Giuda e per le strade di Gerusalemme. Così ci sazieremo di pane, saremo felici e non vedremo alcuna sventura. Da quando infatti abbiamo cessato di offrire incenso alla Regina del Cielo e versarle libazioni, siamo rimasti privi di tutto e siamo stati finiti con la spada e con la fame. Le donne dissero: se noi offriamo incenso alla Regina del Cielo, versando le libazioni, forse all'insaputa dei nostri uomini noi le facciamo focacce con la sua immagine, versandone libazioni? Allora Geremia ribatté a tutto il popolo, agli uomini e alle donne e a tutta la gente che gli aveva risposto in tal modo, così: non è forse l'incenso che voi avete offerto nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, voi e i vostri padri, i vostri re e i vostri principi e il popolo del paese, ciò che ricorda il Signore e gli ritorna in cuore? Il Signore non ha più potuto sopportare a causa delle malvagità delle vostre azioni, a causa delle abominazioni che avete compiuto. Perciò il vostro paese divenne una rovina, una devastazione, una esecrazione senza abitante, come oggi. Perché voi avete offerto incenso, e perché avete peccato contro il Signore, e non avete ascoltato la voce del Signore, e non avete camminato secondo la sua legge, né secondo i suoi precetti e le sue testimonianze, per questo vi ha sorpreso questa sventura, com'è oggi. Geremia disse ancora a tutto il popolo, particolarmente alle donne: ascolta la parola del Signore, o popolo tutto di Giuda, che sei in paese di Egitto. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: voi e le vostre donne l'avete proferito con la vostra bocca e con le vostre mani l'avete compiuto dicendo: continuiamo a mantenere i voti che abbiamo promesso, offrendo incenso alla Regina del Cielo e versando le libazioni. Se volete, mantenete pure i vostri voti, e se volete, compite pure le vostre libazioni. Tuttavia ascoltate la parola del Signore, o voi tutti di Giuda che risiedete nel paese di Egitto. Ecco, ho giurato nel mio nome grande, ha detto il Signore, non sarà più invocato il mio nome per bocca di alcun uomo di Giuda che dica: per la vita del Signore Dio, in tutto il paese di Egitto. Ecco, io sto vigilando contro di loro per la sventura e non per la felicità, e tutti gli uomini di Giuda che sono nel territorio di Egitto saranno sterminati con la spada e la fame fino alla loro distruzione. Tuttavia alcuni scampati di spada torneranno dal paese di Egitto nel paese di Giuda, molto pochi. Così saprà tutto il resto di Giuda venuto nel paese di Egitto per dimorarvi qual è la parola che si realizzerà, se quella da parte mia o quella da parte loro. Questo sarà per voi il segno, oracolo del Signore, che io sto per punirvi in questo luogo, affinché sappiate che infallibilmente si realizzeranno le mie parole contro di voi per la sventura. Così dice il Signore: ecco, io sto per consegnare il faraone Cofrà, re di Egitto, in mano dei suoi nemici e in mano di chi cerca la sua vita, come consegnai Sedecia, re di Giuda, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, suo nemico, che cercava la sua vita.